Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. L'indomani, quando tornai, i miei timori ebbero conferma. Mi fu rifiutato l'ingresso. Milady non era in casa. Sapevo che era falso. Avevo tenuto d'occhio la porta tutta la mattina da un alloggio preso in affitto nella casa di fronte. «La tua padrona non è uscita», dissi. «Non vuole vedermi e io, naturalmente, non posso farmi strada a forza fino a lei. Ma senti, tu sei inglese?» «Lo sono, sì», disse il portiere, con aria di estrema superiorità. «Vostro onore può accorgersene dal mio accento». Sapevo già chi lo era e che perciò potevo corromperlo. Un irlandese, fosse anche un servo di casa, coperto di stracci, che non vede mai l'ombra di uno stipendio, probabilmente vi tirerebbe i soldi in faccia. «Ascolta allora», dissi io, «le lettere della padrona passano per le tue mani, vero? Una corona per ogni lettera che mi porti da leggere. C'è una mescita di whisky nella strada accanto. Portamele là, quando vai a bere, e chiedi di me, chiamandomi Dermot». «Mi ricordo di vostro onore a Spa», disse il domestico, con un gran sorriso. «Il sette vince, eh?» E io ero fierissimo di questo piccolo souvenir. Mi congedai da quel bravo servitore. Io non giustifico questa pratica di aprire le lettere altrui nella vita privata, salvo in casi di assoluta necessità. Le lettere di Milady Lyndon non ci persero niente a venire aperte, anzi, fruttarono un mondo di bene, perché le informazioni che ricavai esaminando qualcuna delle sue innumerevoli epistole mi permisero di conoscere intimamente il suo carattere in 100 modi diversi e di ottenere un potere su di lei, da cui non tardai a trarre profitto. Con l'aiuto delle lettere ero al corrente di ogni dettaglio dei movimenti della vedova, che ne rimaneva stupefatta. Sapevo in anticipo in quali luoghi pubblici sarebbe andata. Erano molto pochi a causa del suo lutto, ma dovunque facesse la sua comparsa, in chiesa o nel parco, io ero sempre lì, pronto a porgerle il messale o a trottare a fianco della sua carrozza. Molte delle lettere di sua signoria erano le più stravaganti rodomontate mai composte da un intellettuale in gonnella. Di tutte le donne che io abbia mai conosciuto, lei era quella che raccoglieva e piantava in asso decine di amiche carissime con il ritmo più frenetico. A qualcuna di queste sue adorate cominciò subito a scrivere della mia indegna persona e scoprì, con mia grandissima soddisfazione, che alla vedova Lyndon stava venendo una terribile paura di me. Mi chiamava la sua bestia nera, il suo spirito malvagio, il suo sanguinario adoratore, e c'erano mille altri nomi a mostrare uno stato di estrema inquietudine, se non di vero e proprio terrore. Era tutto un «quel delinquente non si è staccato dalla mia carrozza fino alla fine del parco», oppure «il mio fato mi ha inseguito fino nella chiesa», e poi «il mio ineludibile adoratore mi ha aiutato a scendere dalla portantina davanti al negozio di tessuti», e non so cos'altro ancora. Il mio obiettivo era di far crescere nel suo petto questo sentimento di soggezione sbigottita e di convincerla che io ero una persona a cui era impossibile fuggire. Riuscii a corrompere un'indovina che lei consultò in quei giorni, e con lei buona parte delle persone più stupide e distinte di Dublino. Nonostante sua signoria fosse andata a trovarla vestita come una delle sue cameriere personali, la fattucchiera non ebbe difficoltà a riconoscere il suo vero rango e non mancò di descriverle come futuro marito quel suo testardo adoratore, il gentiluomo Redmond Barry. Questo la turbò moltissimo. ne parlò a tutte le sue corrispondenti con parole che esprimevano un terrore smisurato, attonito. Che questo mostro, scriveva, sia davvero capace di fare ciò di cui si vanta e piegare persino il fato alla sua volontà, che sia capace di costringermi a sposarlo anche se lo detesto con tutto il cuore e di trascinarmi ai suoi piedi come una schiava. Lo sguardo orrendo dei suoi occhi neri di serpente mi affascina e mi spaventa. Mi sembra che mi segua dappertutto, e anche quando chiudo gli occhi, quello sguardo terribile penetra attraverso le mie palpebre e mi è di nuovo addosso. Quando una donna comincia a parlare di un uomo in questo modo, lui è un asino se non riesce a conquistarla. Io, per conto mio, la seguivo di qua, di là, e poi mi mettevo in posa davanti a lei e l'affascinavo con il mio sguardo tutte le volte che potevo. Intanto Lord George Poynings, il suo corteggiatore di prima, restava in camera sua a curarsi la ferita. Si era mostrato ben deciso a rinunciare a tutte le sue pretese su di lei. Non la faceva entrare quando lei veniva a trovarlo. Non rispondeva alle sue lettere, ora più numerose che mai, e si accontentava di dire vagamente che il chirurgo gli aveva proibito di ricevere visite o rispondere alla corrispondenza. Così, mentre lui spariva dietro le quinte, io venivo alla ribalta, facendo ben attenzione che non mi si presentassero altri rivali con qualche possibilità di successo. Volevo impressionarla con una prova del mio potere, qualcosa di terribile e di grandioso. Perciò decisi di conferire un grande beneficio al mio bravo cugino Ulick, portando via per lui il dolce oggetto dei suoi sospiri. Miss Killjoy, proprio sotto gli occhi di Lady Lyndon, amica e tutrice della signorina. Alla ragazza non spiaceva affatto Mr. Brady. È una prova di quanto manchino di carattere certi uomini e di come un'intelligenza superiore possa valicare all'istante difficoltà che agli intelletti comuni sembrano insormontabili, è che Ulick non aveva mai pensato a fuggire con lei, mentre a me venne in mente subito, anzi, di slancio. Sentendosi sola nella sua grande casa a Dublino, la contessa di Lyndon invitò la sua amica, Miss Amelia, a trascorrere la stagione con lei in città. E in uno slancio di amore materno andò a prendere anche suo figlio, il piccolo Burlington, insieme a una mia vecchia conoscenza, il suo istitutore, perché venissero nella capitale a farle compagnia. Una grande carrozza portò lì da Castle Lyndon il ragazzo, l'ereditiera e il precettore, e io decisi di cogliere la prima occasione per mettere in atto il mio piano. Non dovetti aspettare a lungo il momento giusto. Ho già detto in un altro capitolo della mia biografia che il regno d'Irlanda in quel periodo era vittima delle scorrerie di diverse bande di briganti sotto il nome di White Boys, Hawk Boys, Steel Boys. Al comando dei loro capitani uccidevano gli amministratori, incendiavano i covoni, azzoppavano e mutilavano il bestiame e in generale si facevano giustizia da sé. Beh, una di queste bande, o più di una, per quel che ne so, era comandata da un misterioso personaggio chiamato Capitano Thunder. Sembrava che la sua principale occupazione fosse quella di far sposare la gente con o senza il consenso loro o dei genitori. Le Dublin Gazette e i Mercury di quel periodo, l'anno 1772, sono zeppi di proclami del Lord Luogotenente che offrono ricompense per la cattura di questo terribile Capitano Thunder e della sua teppa, e descrivono per esteso varie imprese di quel brutale aiutante di campo del dio Imene. Decisi di fare uso, se non dei servigi, almeno del nome del Capitano Thunder, e di mettere in mano a mio cugino Ulick la sua dama e le 10.000 sterline. Beh, non era una gran bellezza. Suppongo che fosse il denaro che lui amava più che la sua proprietaria. Per via del suo lutto, Lady Lyndon non poteva ancora frequentare balli e le serate che l'ospitale nobiltà di Dublino era solita dare, ma la sua amica Miss Killjoy non aveva ragione di vivere ritirata come lei ed era lieta di partecipare a qualsiasi occasione mondana a cui fosse invitata. Regalai a Ulick Brady un paio di eleganti abiti di velluto e con la mia influenza gli procurai inviti a molti dei ricevimenti più eleganti. Ma non aveva le mie doti naturali né la mia esperienza delle maniere di corte. Con le signore era timido come un puledrino e ballava il minuetto con la grazia di un somaro. Fece pochissima strada nel mondo elegante e altrettanta nel cuore della bella. Milord Charlemont, uno dei nobili più eleganti e raffinati dell'Irlanda d'allora, gentiluomo di notevole cultura e di spirito brillante, che aveva anche viaggiato molto all'estero, dove avevo avuto l'onore di conoscerlo, diede un magnifico ballo in maschera nella sua villa di Marino, a poche miglia da Dublino. Io avevo deciso che proprio quel ricevimento sarebbe servito a far felice Ulick per tutta la vita. Quella notte mi presentai sotto le spoglie di un personaggio che conoscevo molto bene, un soldato semplice della guardia del re di Prussia. Mi ero fatto fare una maschera grottesca con due baffi e un naso immenso. Parlavo un miscuglio di inglese sgrammaticato e tedesco, quest'ultimo in netta preponderanza. Miss Killjoy era vestita da principessa antica e accanto a lei il piccolo Burlington impersonava un paggio dell'epoca della cavalleria. Aveva i capelli incipriati, un farsetto rosa, verde pisello e argento e un'aria molto elegante e impertinente quando si pavoneggiava con la mia spada al fianco. Quanto a Mr. Rant, si aggirava con un'aria grave, avvolto in un domino, e andava ogni momento a rendere omaggio al buffet. Il Lord Luogotenente arrivò e se ne andò in pompa magna. Oh, il ballo fu magnifico. Miss Killjoy ebbe cavalieri in abbondanza e tra di loro c'ero anche io, che danzai un minuetto con lei, se si poteva dire danzare, il goffo trotterellare dell'ereditiera irlandese. E colsi l'occasione per perorare la mia passione per Lady Lyndon con parole davvero toccanti, supplicando la sua amica di intercedere in mio favore. Erano le 3 del mattino quando la comitiva diretta a Lyndon House se ne andò. Il piccolo Burlington si era addormentato da un pezzo in uno dei gabinetti di porcellana di Lady Charlemont. Mr. Rant aveva una voce terribilmente rauca e il passo più che incerto. Al giorno d'oggi una signorina si allarmerebbe a vedere un uomo per bene in tali condizioni, ma in quei bei tempi allegri questo era uno spettacolo comune e un gentiluomo veniva considerato un lattante se una volta ogni tanto non era brillo. Insieme a vari altri signori accompagnai Miss Killjoy alla sua carrozza e scrutando tra la folla stracciona di piccoli fiaccolai, cocchieri, mendicanti, uomini e donne sbronze, gente che stava sempre in attesa fuori delle porte dei gran signori quando si dava una festa, vidi la carrozza allontanarsi tra un urrà della marmaglia. Beh, io ritornai subito nella sala da pranzo. Il fatale veicolo che portava l'adorato oggetto delle attenzioni di Ulick Brady non aveva fatto ancora molta strada quando, nel mezzo di un solco che tagliava profondamente la strada, si bloccò di colpo con un violento scossone. Balzato giù da dietro la carrozza, il lacchè gridò «Ferma!» al cocchiere e lo avvertì che si era staccata una ruota e che sarebbe stato pericoloso procedere sulle altre 3. Miss Killjoy sporse allora la testa fuori del finestrino, strillando, da brava signora. Il cappellano Mr. Rant si risvegliò dai suoi sonni di ubriaco e il piccolo Ballington balzò su e disse, sguainando il suo spadino: «Non abbiate paura, Miss Amelia! Se si tratta di briganti, io sono armato!» Quel furfantello aveva un coraggio da leone. È la pura verità e devo riconoscerlo, a dispetto di tutti i dissapori che ebbi con lui in seguito. Fu allora che sopravvenne la carrozza d'Anolo che aveva tenuto dietro a quella di Lady Lyndon. E il cocchiere, visto quello sconquasso, scese da cassetta e chiese educatamente a sua signoria se voleva fargli l'onore di salire sulla sua vettura, tanto pulita ed elegante che nessuna persona di alta classe avrebbe potuto desiderare di meglio. Dopo un paio di minuti, questo invito fu accettato da tutti i passeggeri della carrozza. Benché il cocchiere d'Anolo desse briglia ai cavalli, dentro la carrozza la comitiva cominciò a pensare che Dublino doveva essere più distante del previsto. Quale non fu lo stupore di Miss Killjoy quando, guardando finalmente fuori dal finestrino, si vide attorno una brughiera solitaria, senza il minimo segno di edifici. Prese subito a gridare al cocchiere di fermarsi, ma a quel chiasso l'uomo si limitò a frustare i cavalli più forte e a dire a sua signoria di avere pazienza, che lui stava prendendo una scorciatoia. Miss Killjoy continuò a strillare, il cocchiere a dar di sferza, i cavalli a galoppare, finché non sbucarono da una siepe due o tre uomini, a cui la bella Killjoy chiese aiuto gridando, e il giovane Ballington allora, aprendo la porta della carrozza, saltò giù coraggiosamente, cadendo con un bel capitombolo, ma rialzatosi in un attimo, sguainò la sua piccola spada e correndo verso la carrozza esclamò: «Di qui, signori! Fermate quel furfante!» «Fuori dai piedi, milord!» disse l'uomo con forte accento irlandese e lo spinse da parte. A questo gesto il ragazzo, gridando «Ladri! Ladri!» sguainò il suo spadino e si lanciò sull'uomo. L'avrebbe ferito. Una piccola spada ferisce proprio come una grande. Ma il suo avversario, che aveva con sé un lungo bastone, fece abilmente balzare l'arma dalle mani del ragazzo. Gli volò sopra la testa, lasciandolo sbigottito e mortificato per la sconfitta. Poi l'uomo si tolse il cappello, fece un profondo inchino a sua signoria ed entrò nella carrozza, mentre il suo complice, che doveva salire a cassetta, gli richiudeva la porta alle spalle. Miss Killjoy forse avrebbe strillato, ma immagino che le sue grida venissero troncate dalla vista di un'enorme pistola d'arcione che uno dei suoi paladini tirò fuori, dicendo: «Non vogliamo farvi alcun male, signorina, ma se li mettete a gridare, dovremo imbavagliarvi». A queste parole restò subito muta come un pesce. Tutto questo accadde in un tempo brevissimo. E quando i tre usurpatori ebbero preso possesso della carrozza, lasciando a terra il povero piccolo Ballington tutto sbalordito e sconvolto, uno di loro sporse la testa dal finestrino e disse: «Milord, vorrei dirvi una parola». «Che c'è?» disse il ragazzo, cominciando a piagnucolare. Aveva solo 11 anni e fino a quel momento aveva mostrato un coraggio fuori del comune. «Siete a sole 2 miglia da Marino. Ritornate sui vostri passi fino a trovare una grossa pietra. Là voltate a destra e continuate diritto fino alla strada maestra. Da lì troverete facilmente la via del ritorno. E quando vedete sua signoria, Lady Lyndon, la vostra mamma, portategli gli omaggi del capitano Thunder e ditele che Miss Amelia Killjoy si sposa». Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini.